No, ma lei semplicemente mi deve dire se sono segnalazioni con nome e cognome o C'è sono anonime. un nome e un cognome che una persona con un nome e un cognome dice che ha messo la pistola qua dentro. Che ha Lui messo ha una pistola, pensato. ha messo una pistola qui dentro. Cioè, Non c'è che c'è una pistola qua dentro, che c'è una pistola, che messa c'è lui. una pistola Ci ha qui dentro. messa lui. Dice che ha messo la pistola qua dentro. Dice che ha messo la pistola qua dentro. Dice che ha messo la pistola qua dentro. Dice che ha messo la pistola qua dentro. Dice che ha messo la pistola qua dentro. Dice che ha messo la pistola qua dentro. Dice che ha messo la pistola qua dentro. Dice che ha messo la pistola qua dentro. Dice che mi sono insomma, dice che mi sono insomma, dice che mi sono insomma, dice che mi sono insomma. Ti ricordi i nostri territori di caccia? Gli uomini bianchi avanzano come locuste, divorando tutto sul loro cammino. Lasciano la terra spoglia, priva anche della sua dignità. Ho capito, padre, a che razza appartengono. I miei occhi hanno visto altre tribù massacrate. Li stanno ammazzando tutti, tutti i figli della nostra terra. Piccolo orso, ho affrontato le tempeste di molti inverni, ma ormai sono come un vecchio albero. Le mie foglie sono cadute e i miei rami sono ormai secchi. Sono troppo debole per guidare il mio popolo. È tempo che io raggiunga lo spirito dei miei padri. Preparami un posto per restare accanto a te, insieme lassù. Ritroveremo quel paradiso che ci hanno sottratto. Nessuno può rubare il paradiso, perché ho un uomo, anche il più avido fra tutti, può sottrarre agli altri solo quello che può raggiungere. E il paradiso, piccolo orso, è un posto che nessuno può rubare. qui, è dentro il tuo cuore che devi trovare il coraggio di diventare quello che sei destinato ad essere. Non lasciarmi, padre. Non ti lascerò mai, perché noi siamo un unico essere. Gioisci insieme a me, figlio mio, mentre mi abbandono tra le braccia della pace. Come farò a trovarti? Il tuo primo amico, l'uomo bianco, vuole ucciderlo. Lo devi proteggere, figlio mio. Thank you. Gli straccioni lasciano sempre qualcosa di prezioso vicino ai loro morti. Questo è morto da poco. Guarda, hanno lasciato della frutta fresca. Buona. Questo è oro. Oro? Non è possibile. Fammi vedere. Guarda, hai ragione. È oro. È proprio... Siete solo capaci a uccidere animali e a depredare i morti. E lui? Sparate! Sparate! Chi offende lo spirito dei morti attira su di sé le forze del male. Siete solo capaci a uccidere animali e a depredare i morti. Chi offende lo spirito dei morti attira su di sé le forze del male. Chi offende lo spirito dei morti attira su di sé le forze del male. Attira su di sé lo spirito dei morti. Attira su di sé le forze del male. Attira su di sé lo spirito dei morti. Attira su di sé le forze del male. Attira su di sé lo spirito dei morti. Attira su di sé le forze del male. Attira su di sé lo spirito dei morti. Attira su di sé le forze del male. Attira su di sé lo spirito dei morti. Attira su di sé le forze del male. Attira su di sé lo spirito dei morti. Grande Tawanka ha voluto che la tua tenda fosse sempre riscaldata in attesa del tuo ritorno, piccolo orso. Molte stagioni sono passate da quando sei partito per vendicarti. Sono sicuro che ancora ricordi quel giorno. Lui è stato il primo. E gli altri? Li ho cercati a lungo e li ho trovati in ogni atto di violenza inutile e crudele contro gli indifesi, i deboli, gli oppressi. Ne ho uccisi molti. Tu è l'uomo innocente! Ma alla fine stavo diventando come loro. La vendetta non mi dava la pace che cercavo. Ed il nemico che dovevo affrontare non era più davanti a me. Era dentro di me. Li avevo cercati per vendicarmi, per cancellarli dalla faccia della terra e dal mio cuore.

Cittadini di Golgotown, mi chiamo Fred Goodwin e sono venuto in questo posto dimenticato da Dio per portare a voi tutti la prosperità. All'interno di questo carro c'è il futuro. Sì, il futuro. La macchina che tra poco vedrete in funzione si muove grazie a un liquido a dir poco miracoloso, che genera un gas che produce energia. Osservate gli effetti di una modesta quantità di questo liquido sulla macchina. Esso fa muovere gli ingranaggi su e giù. Immaginate ora quali incredibili possibilità riserva il futuro. E sto parlando del vostro futuro. Tutti quelli fra voi che si sentono oppressi, che sono vittime di leggi ingiuste, di soprusi, di ideologie razziste, tutti coloro che sognano maggiore libertà e sperano in un'esistenza più umana, pensino a quanto ho detto mentre osservano l'effetto miracoloso di questo liquido. Ma non si muove più! Come mai non si muove più? È un trucco! Ci risponda! Può il fiume scorrere senza acqua? Può il corpo vivere senza sangue? Allo stesso modo, questa macchina meravigliosa non può funzionare senza quel nettare degli dèi. Senza quello che viene chiamato oro nero. E quest'oro nero, voi lo avete qui, signori. Tutto intorno a voi, proprio sotto i vostri piedi. L'unica cosa che bisogna fare è aiutarlo ad uscire. Io prometto a tutti voi un paradiso in cui scorreranno fiumi di denaro e di whisky e in cui avrete donne di ogni genere e per tutti i gusti. Ho ragione. Lena. Dove sei stato tutti questi anni, figlio di puttana? Avevo degli impegni. Il signor Goodwin promette guadagni sicuri a chi lavorerà per lui. A chi cercherà di opporsi farà la stessa fine di questi. Benedetti saranno coloro che brinderanno insieme al signor Goodwin, perché nessuno di loro pagherà questa volta. È arrivato il Messia! Ehi tu, storpio, prendi quei cadaveri e appendili là sopra. Devono vederli tutti. Servirà da esempio. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Prendi quei cadaveri e appendili là sopra. Devono vederli tutti. Servirà da esempio. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. Sì, il futuro. she said. When bottom you had, she said. Look at you, I believe in you, she said. Screaming into the it up. I wanna break it down. I want a wall of tears to wash away. Chiesto che sei venuto a fare. Sei l'unica persona che conosco che, toccato il fondo, riesce ad andare ancora più giù. Questa è la mia città. Il gioco lo conduco io. Decido io chi deve restare e chi deve andare. Sei molto coraggioso. Quando hai i tuoi uomini sui tetti con i fucili puntati. Non mi sembra che tu abbia capito. Basta una mia parola e sei morto. E quale sarebbe la parola? Fuoco! Dice che ha messo la pistola qua dentro. Dice che ha messo la pistola qua dentro. Cookie! Il mio nome è Fred Goodwin. Il vostro qual è? Per prima cosa, permettimi di presentarti i miei uomini. Sono dei bravi ragazzi. Coraggiosi, decisi e fedeli. Io sono Caspar. Che cosa volete, signor Caspar? Ci hai raccontato una storiella interessante che parla di oro nero, di noi che diventiamo tutti ricchi. Hai ammazzato Maddock e i suoi. Un lavoretto di classe, devo ammetterlo. Ma se sei venuto per darci ordini, hai commesso un grosso errore. Good luck, come cazzo ti chiami. Io e i miei uomini non prendiamo ordini da nessuno. Forse puoi prendere per il culo questi straccioni, noi no. È tutto chiaro, ho capito quello che voi state dicendo, signor Caspar, ma non mi piace il vostro tono di voce. Forse, Goodwin, non dovrai sentirlo ancora a lungo. Non c'è ragione di arrivare a tanto. Io vi sto offrendo un'occasione unica per uscire dalla miseria e ottenere quello che volete. Cioè i soldi. Il mondo è di coloro che li hanno in tasca. E il solo modo che voi avete per farne un bel mucchio è aiutare me a estrarre questo liquido da sottoterra. A voi la scelta. Vedremo. Cioè i soldi. Il mondo è di coloro che li hanno in tasca, cioè i soldi. Il mondo è di coloro che li hanno in tasca, cioè i soldi. Il mondo è di coloro che li hanno in tasca. Il mondo è di coloro che li hanno in tasca. Il mondo è di coloro che li hanno in tasca. Il mondo è di coloro che li hanno in tasca. Il mondo è di coloro che li hanno in tasca. Il mondo è di coloro che li hanno in tasca. Il mondo è di coloro che li hanno in tasca. We'll be right back. Tutto quello che so mi è stato rivelato per illuminare il cammino degli uomini. E sono cose meravigliose. Non dimenticare mai le infinite stelle dell'universo, l'erba che cresce dalla terra. T'ho accompagnato fino al centro del mondo per mostrarti la bellezza divina della nostra unica madre. Ecco la stella del mattino. Colui che riuscirà a vederla camminerà con saggezza lungo il proprio sentiero. La luce della luna sarà per te lo spirito di tuo padre e il calore del sole sarà la tua forza. Tutto quello che so mi è stato rivelato per illuminare il cammino degli uomini. E sono cose meravigliose. Tutto quello che so mi è stato rivelato per illuminare il cammino degli uomini. E sono cose meravigliose. Tutto quello che so mi è stato rivelato per illuminare il cammino degli uomini. E sono cose meravigliose. Tutto quello che so mi è stato rivelato per illuminare il cammino degli uomini. E sono cose meravigliose. Tutto quello che so mi è stato rivelato per illuminare il cammino degli uomini. E sono cose meravigliose. Yeah. In effetti in questa zona il petrolio c'è, signor Goodwin. Avevate ragione. Ma sarà necessario perforare in altri punti, perché qui, a parte qualche traccia, non... Mi state ascoltando, signor Goodwin? Andremo lassù. Il giacimento principale deve essere là. Nella riserva indiana. Questo è petrolio di ottima qualità. Ma come lo sapevate? E perché allora abbiamo trivellato giù a valle? Waka waste. Waste washi etaka. Siamo venuti qui soltanto per osservare le vostre usanze. Voi non avete rispetto neanche per voi stessi, ma la terra dei nostri antenati è sacra e nessuno deve calpestarla. Andate! Ce ne andiamo! Dimenticate la strada per tornare. A Tayanka! Sì, va bene. Va bene. Washte! Washte! Non hanno rispetto per la nostra madre terra. Vogliono distruggerla, avvelenarla, portarla via a chi la ama, alla nostra gente. Come sono arrivati al cimitero, arriveranno anche qui. Ma io non permetterò che distruggano il grande sogno. Mio fratello Piccolo Orso dice il vero. Sento la madre terra. La senti anche tu. Ci sta chiamando. Ci sta chiedendo di proteggerla. Dobbiamo farlo. Dobbiamo combattere, Piccolo Orso. messo la pensola qua dentro. Dice che ha messo la pensola qua dentro. Dice che ha messo la pensola qua dentro. Dice che ha messo la pensola qua dentro. Dice che ha messo la pensola qua dentro. Dice che ha messo la pensola qua dentro. Dice che ha messo la pensola qua dentro. Dice che ha messo la pensola qua dentro. Dice che ha messo la pensola qua dentro. Dice che ha messo la pensola qua dentro. Dice che ha messo la pensola. Dice che ha messo la pensola. Dice che ha messo la pensola. Dice che ha messo la pensola. Dice che ha messo la pensola. Dice che ha messo la pensola. Dice che ha messo la pensola. Dice che ha messo la pensola. A chi citai Taus lo wawauo? A chi cita Ciankuluta Manihuo? Dove porta questo sentiero? Da dove siamo? A dove dovremmo essere? Nessuno conosce il suo destino, fino a quando non vede la via. E qual è la via, piccolo orso? La via? Non c'è nessuna via. È il nostro cammino a crearla. Sono state le nuvole ad avvertirmi del tuo arrivo, figlio. Le stesse nuvole che mi hanno portato da te, grande padre. Molti inverni sono passati. Ma io sono sempre stato al tuo fianco. Non ho mai dimenticato le tue parole. Guarda, laggiù vivono gli spiriti del tuono. Ti porteranno dove potrai diventare un'aquila e guardare da lassù la terra. E vedere tutto quello che c'è da vedere. Sarai in un posto in cui il sole brilla sempre, piccolo orso. Solo allora potrai comprendere tutto quello che è giusto sapere. Bevi questo. Dentro c'è il potere della vita. È tuo. E prendi questo. Hai il potere di dare e di togliere. È tuo. Jonathan Kowalski. Sono venuto disarmato per parlarti. Tu hai delle macchine che vuoi usare sul nostro territorio e io non credo che questo sia giusto. Sei venuto a dichiarare guerra al progresso? No. Voglio solo che sappiate che per noi la terra è sacra. Puoi non crederci, ma è sacra anche per noi. Vogliamo usarla per rendere migliore la vita. Di tutti quanti. La nostra vita è diversa dalla vostra. La vista delle città offende gli occhi dei miei fratelli. Anche la vista del benessere? E della prosperità? Anche questo li offende? Tu vuoi rubarci la terra, ma la terra non appartiene a noi. Noi apparteniamo alla terra. Ma tu non potrai mai capire come vive il mio popolo. Il tuo popolo vuole vivere facendo la guerra contro di noi, ma sarà sconfitto. Il progresso vincerà e loro saranno spazzati via. Tu vuoi rubarci la terra, ma la terra non appartiene a noi. Noi apparteniamo alla terra. Tu vuoi rubarci la terra, ma la terra non appartiene a noi. Noi apparteniamo alla terra. Tu vuoi rubarci la terra, ma la terra non appartiene a noi. Noi apparteniamo alla terra. Tu vuoi rubarci la terra, ma la terra non appartiene a noi. Noi apparteniamo alla terra. Noi apparteniamo alla terra. Noi apparteniamo alla terra. Noi apparteniamo alla terra. Noi apparteniamo alla terra. All alone, we can feel all alone. messo la pinzola qua. Dice che ha messo la pinzola qua. Dice che ha messo la pinzola qua. No, ma lei semplicemente mi deve dire se sono segnalazioni con nome e cognome o c'è, sono anonime. C'è un nome e un cognome e una persona con un nome e un cognome dice che ha messo la pinzola qua. Ha messo una pistola qui dentro. Che c'è una pistola qua dentro. Che c'è una pistola. Che c'è una pistola.